addio, buongiorno passati, mia piccola amica ti devo lasciar. Gli studi sono già terminati, abbiamo finito così di sognar. Lontano andrò, dove non so, parto col pianto nel cuor, dammi ultimo bacio di amor. Non ti potrò scordare, via Montesina bella, serai la sola stella che brillerà per me. Ricordi quelle sere, passati al Valentino, col blondo studentino che ti stringeva sul cuor. Ricordi quelle sere, passati al Valentino, col blondo studentino, che ti stringeva sul cuore.